programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Siamo belli freschi freschi, è il caso di dire, non so perché iniziamo adesso, quindi una cosa proprio fresca del momento, in diretta, 14 e 2 minuti, abbiamo passato 2 minuti dalle 2, ma abbiamo ancora del tempo naturalmente, anzi quasi un'ora, per raccontarci le notizie della settimana, i vostri commenti in libertà. Dicevo belli freschi anche perché le temperature molto basse sono arrivate, un'ondata di maltempo, nevicate, molti, forse sono ancora mezzi bloccati, insomma c'è stato un tilt generale un po' in tutta l'Italia per queste nevicate abbondanti. Le notizie in realtà, come sempre, come tutte le settimane, sono un'infinità. Io non ve le posso elencare, ma se stanno a cuore a voi o frullano nei vostri pensieri, con libertà parlatene, dal voto di fiducia che c'è stato martedì, con tutti i retroscena e anche i post scena, cioè quello che è avvenuto immediatamente dopo e avverrà, no? I scenari politici, le coalizioni, che cosa succederà, che fine farà, per esempio dove andrà il PD, ancora non ha deciso, e Fini, qual è la sua posizione a questo punto? Sì, si crea il terzo polo, polo della nazione, ma la sua leadership, ecco, che ruolo avrà? Poi Assange libero, oppure il fondatore di Facebook che lo ha battuto nel sondaggio del settimanale americano Time come uomo dell'anno, Zuckerberg, insomma, del resto è praticamente il terzo continente al mondo quello su Facebook, tanto è vero che anch'io in qualche modo mi sono convertita, io piuttosto refrattaria a questi mezzi, e se volete la trasmissione, la pagina della trasmissione la ritrovate anche su Facebook, non ci sono più le mezze stagioni, qualcuno mi ha tirato le orecchie perché non lo ricordo mai, è da poco che è nata comunque, e anche perché forse per il momento ci intervengo poco, ma prometto solennemente, come buon proposito soprattutto per l'anno nuovo, che lo farò molto più assiduamente, anche perché ci tengo naturalmente le vostre opinioni, i vostri commenti. Poi vi ricordo anche che la trasmissione può sempre essere riascoltata dalla settimana nuova sul sito di Radio 24. Cercate programmi, andate su Non ci sono più le mezze stagioni e il gioco è fatto. Ma come sempre, cosa ci conferma questa settimana che non ci sono più le mezze stagioni, che le cose cambiano? Bene, la crisi ha cambiato molte cose, vabbè, questo non c'è bisogno di dirlo, è la scoperta dell'acqua calda, soprattutto dalle tasche degli italiani e non solo, però ci sono stati dei ritocchi anche per quanto riguarda le merci invisibili, che però ve ne enuncio, insomma, in un certo numero, sinteticamente ovviamente, perché sono tantissime le cose. Per esempio, quando mangiate lo yogurt, no? A molti piacciono gli yogurt e frutti di bosco, o lamponi o fragole. Ebbene, per risparmiare le aziende mettono adesso decisamente un numero minore di frutta, di lamponi, di fragole, eccetera. Il resto, questo per risparmiare, il resto ci pensa a farlo il colorante. A volte sono naturali, a volte sono artificiali. Guardate bene le etichette. Anche la maionese è cambiata. Adesso si mette molta più buccia di limone perché mantiene lo stesso sapore ma si usa meno olio di semi, che costa di più ovviamente della buccia di limone. Voi non lo sapete, ma è così. E poi gli stessi biscotti, quando vedete il nome grasso vegetale, dietro questa espressione si celano spesso dei grassi più scadenti, no? Come quelli e meno costosi ovviamente, di quello dell'olio d'olivo o del burro, sono olio di palma e di cocco, che hanno anche un elevato contenuto di colesterolo, quindi se potete evitare tanto meglio. Ma uno dice, sono cambiati soltanto, non sono più come una volta soltanto i cibi, no, persino l'abbigliamento, i jeans per quanto riguarda le aziende li lavano meno prima di venderli, in sostanza si risparmia sul trattamento d'acqua tagliando un paio di lavaggi. Quindi a voi i jeans sembrano sempre lo stessi, ma sono riusciti a avere questo vantaggio, diciamo, questo risparmio, lavandoli meno per quanto riguarda la stoffa che deve assumere un certo colore. Persino i giubbini all'interno hanno più materiale sintetico, non so, per esempio i bomber, avete presente, più materiale sintetico o fibra artificiale al posto di lana o piuma. Pensate, sono ritocchi invisibili, ma adesso di qualcuno ne siete consapevoli. Invece cosa ci dice? Che ci sono sempre le mezze stagioni, in realtà le cose non cambiano. Anche questa settimana diverse donne uccise da partner, ex mariti, attuali mariti, fidanzati, ex fidanzati, eccetera eccetera. Bene, ora che abbiamo fatto questo quadro d'inizio possiamo cominciare nel modo vero e proprio. Tra pochissimo vi presento il mio opinionista di oggi, che ci aiuterà a commentare insieme a voi ascoltatrici e ascoltatori i fatti della settimana. Numero verde sempre 800 24 0024 e oggi c'è, signore e signori, Michele Ainis. Michele? Sei ancora bloccato? Ecco, no. Ah, no, no, pensavo fossi ancora bloccato come ieri nelle strade romane, no? A no, casa, no, tranquillo. È stato questo ingresso alla Morning of Fame che mi ha un po'. Senti, vai messo sul tupè, però, perché sai che ogni mattina poi se lo rimette Moira. Ce l'hai anche tu? No, tutto bello prefabbricato. Niente. Non ce l'hai. No, vabbè. Michele non ce l'ha. Michele è costituzionalista, persona seria, è docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma 3. L'ultimo libro si intitola La cura, pubblicato da Chiare Lettere. C'è una cura, secondo te, effettivamente, a tutto ciò? Certamente c'è un malato. E quindi poi ci sono molti dottori che a volte fanno più danni che trovare dei rimedi, però insomma si scopre l'acqua calda dicendo che abbiamo un bel po' di guai sul groppone. Io credo che il principale di questi guai, insomma dei mali che affliggono l'Italia, è questa inossidabilità, diciamo, delle classi dirigenti che sono sempre le stesse, che ci governano, che a volte cambiano l'etichetta del partito, ma insomma poi le facce sono sempre uguali, e questo alla fine è diventato molto frustrante. Non giustifica, però spiega anche delle esplosioni di rabbia come quelle che sono avvenute a Roma e in altre città italiane da parte di ragazzi che diventano sempre più consapevoli del fatto che studiare è importante, ma poi non è quasi mai determinante, perché è determinante l'aiuto di una cordata che ti protegge o di mamma e papà che riescono a darti una mano. Insomma, il merito, che è una parola che ricorre sempre di più nel nostro dibattito pubblico. No, ma non c'è più nel dizionario, ti sei accorto? È sparita, perché ormai non ha più nessun valore, come sai, certe parole perse ormai nel passato, cose latine, non c'è più. Sì, e allora ci siamo adeguati ai tempi. Caro Michele, ci sono già moltissime ascoltatrici e ascoltatori al numero verde, c'è Laura per esempio dalla provincia di Viterbo, c'è Stefano da Vicenza, c'è Marco da Milano, hanno assaltato Giorgio De Luca praticamente i telefoni, non ha fatto tempo a sedersi lì in regia. Adesso piano piano diamo spazio. Direi prima di collegarci con un altro pianeta, come sempre, perché vogliamo avere più punti di vista, desidero avere in questa trasmissione, sentirei subito Laura dalla provincia di Viterbo. Sentiamo un po' il tuo tema, Laura. Benvenuta. Signora Roberta, io sono un'anziana signora. Sì. Voglio protestare contro i giovani che hanno distrutto Roma e sono contro la magistratura che li ha liberati. Secondo me li avrei presi non in carcere, li avrei portati a lavorare ai lavori forzati, fargli pagare tutti i danni che adesso il comune di Roma, la provincia, la regione dovrà pagare, perché è una cosa incredibile. Non si può sopportare una cosa di questo genere, rompere le vetrine, prendere il silcio per la strada e gettarli contro la polizia, fare il fin mondo. Allora io ti avrei fatto questa punizione, portarli a lavorare ai lavori forzati. Come facevano i russi in Siberia. Accidenti. Laura, intanto ti ringrazio del tuo intervento. Poi Michele, ci torneremo sicuramente su questo argomento, perché è uno degli argomenti caldi di questa settimana. Però leggevo per esempio un titolo di ieri del Corriere della Sera all'interno: ora caccia ai violenti fuggiti. Quindi quelli che ha messo dentro sono i violenti o non sono i violenti? Ma a quanto pare sono dei ragazzini che sono tutti molto giovani, con responsabilità personali non gravi, perché altrimenti non mi spiegherei perché poi siano stati immediatamente scarcerati. E io vorrei dire, è certamente unanime la condanna rispetto a questi episodi di violenza, però proprio davanti a fatti traumatici dobbiamo tenere salda la barra sui principi. È uno dei principi fondamentali di uno Stato di diritto che sta scolpito anche nella nostra Costituzione, è che la responsabilità penale è personale, cioè si risponde per ciò che personalmente si è commesso. Quindi io devo supporre, a meno che non siano impazziti i magistrati romani, che nel caso di questi ragazzi che erano stati subito presi, evidentemente non c'erano degli addebiti significativi al loro danno, e invece i più violenti sono stati anche più furbi e sono scappati via. Però non si può, per la condanna di una degenerazione, insomma, da parte di alcuni, di una manifestazione, quella invece in sé legittima, condannare l'intera manifestazione e trovare dei capri espiatori, insomma, bisogna certamente punire però i responsabili. Stefano da Vicenza, prima di collegarci con Marte. Stefano. Sì, buongiorno. Buongiorno Stefano. Ecco, niente, visto che c'è anche l'esperto, così posso togliermi delle curiosità, no? Io Michele pensavo, Ainis, no? Costituzionalista, esperto in quel senso, un esperto, sì, diciamo, sì. Di tutto sì, sì. Lo scibile umano. Sì. Proprio si fatti anche della fiducia a Berlusconi in questi giorni, no? Cioè io mi chiedo anche se, insomma, a un certo punto non si sa più, cioè non so più se di essere di sinistra, destra, qua là, perché è proprio un volta gabbana, come ho sentito molte volte dire in questi giorni, no? Chi è che volta gabbana? Chi? Sì, uno, cioè, Fini è stato votato per governare con Berlusconi, adesso gli ha voltato le spalle, quindi il governo ha rischiato di cadere, no, in questi giorni, giusto? Quindi alla fine ha voltato le spalle. Cioè, io vorrei chiedere, ma non c'è la possibilità, come no, che se uno vince le elezioni, no, basta, cioè, lui deve governare, anche perché alla fine fare le elezioni costa. Rifare le elezioni, organizzare tutto è un costo molto però alto. Però c'è la possibilità, no? È un istituto democratico quello della sfiducia al governo, esiste, mozione di sfiducia, no, poi... No, lo so, però qua in Italia è vero quello che ho sentito dire anche da qualcuno questi giorni, cioè forse siamo uno dei governi che... Cioè, è stato Berlusconi, mi sembra, l'ultimo mandato a riuscire a fare con difficoltà 5 anni filati, no? Il governo, se no, altrimenti tutti i governi prima sono caduti prima, no? Quindi tu, Stefano, vorresti che fosse fatta una legge che in qualche modo blindasse un governo, una maggioranza, sì, finché non finisce il mandato? A me Berlusconi personalmente non è che mi abbia mai convinto, no? Però se la maggioranza lo ha votato, è giusto che lui faccia quello che ha fatto, anche perché alla fine come facciamo, no, adesso, come faccio io, che sono, facciamo finta anti-berlusconiano, no, a dimostrare che Berlusconi ha governato male se non gli ho dato la possibilità di poterlo giudicare? Guarda, chiediamo subito, prima della viabilità, che è importante soprattutto oggi con quello che c'è stato con la neve, chiediamo Michele Ainis, è possibile secondo te una cosa del genere? Nelle democrazie parlamentari diciamo no. Cioè se ci fosse una camicia di forza o comunque un orologio che le cui lancette si fermano al giorno delle elezioni, poi però la vita va avanti, le stagioni politiche mutano, cambiano, i problemi sono nuovi, non si potesse mai correggere la rotta, quello sarebbe diciamo una negazione rispetto a un modello di democrazia, poi ce ne possono essere anche altri. Facciamo un'ipotesi estrema, ci capiamo, se il Presidente del Consiglio, insomma non Berlusconi, ma un astratto Presidente del Consiglio impazzisse, noi non potremmo far nulla per rimettere in linea le cose e anche gli affari di governo. Quindi è una specie di garanzia questa possibilità che si possa sfiduciare o cambiare. Se ho ancora un secondo, certo. Distinguerei, diciamo, gli smottamenti politici che sono avvenuti sia a sinistra che a destra, cioè si è staccato Fini dando voce e corpo però ad un dissenso politico che ha coagulato un certo numero di parlamentari, si è staccato Rutelli, che era stato anche lui cofondatore del Partito Democratico, come Fini lo era del Popolo della Libertà, certo. Queste due scissioni, che hanno poi dato vita a due nuovi movimenti politici, avevano un significato politico. È una cosa diversa invece il singolo voto che diciamo diventa ballerino e viene accaparrato da questo o da quello. Sono due fenomeni diversi. Comunque mi viene in mente, prima della viabilità, una frase di Pitti Grilli che diceva: si può per carità cambiare idea nella vita, l'importante è avere idee di ricambio. Mio opinionista estemporaneo di oggi è Michele Ainis, costituzionalista e insegna istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma 3. L'ultimo suo libro si intitola La cura. Guardavo un'agenzia dell'ANSA di poco fa, l'assessore di Napoli dice: in strada ci sono circa 1300 tonnellate di spazzatura. Ora, Michele Ainis, forse Berlusconi dovrebbe evitare ogni poco di dire tra 2 giorni, tra 3 giorni, tra 7 giorni tutto pulito, no? Perché no? Cosa dici? Sì, magari c'è la buona intenzione, la buona volontà, ma poi le cose se sono così. Ma inf- fondo questa incapacità di risolvere i problemi, che poi per carità è stato anche un lascito del governo che ha preceduto questo, cioè il governo Prodi. È una storia vecchissima questa. È una storia che è un po' l'immagine di un paese che la cui capacità di efficienza, la cui produttività scende. Noi abbiamo lo 0,2% di aumento del PIL, siamo il fanalino di coda in tutti i paesi OSCE. Il famoso declino di cui si parla, insomma, da più parti. Ecco, poi non so. E poi rappresentato dal declino dei muri di Pompei e invece dalla sopraelevazione delle montagne di spazzatura. Ecco, fenomeno inverso. Poi su Pompei ti voglio chiedere una cosa, ma intanto abbiamo imminente questo collegamento extraplanetario. Prego. Riflessioni da Marte. Qui da Marte, questa settimana, guardando verso l'Italico stivale, si è avuta come l'impressione di un grande frenetico gioco ai quattro cantoni. Sapete, come quei giochi con le pedine umane, no? Che si fanno in certe occasioni di festa, nelle grandi piazze. Ma poi, a guardar meglio, quella piazza brulicante, dove c'era chi si spostava da un lato all'altro, anche all'ultimo momento, con azioni ad effetto, era in realtà il Parlamento italiano. Avete presente il Parlamento italiano? E c'era chi sciamava da un punto all'altro cantando. C'era anche chi, in controtendenza in tutto questo lasciarsi, proponeva matrimoni, tipo di matrimoni riparatori alle rotture, si intende. Di Pietro, in uno slancio passionale, che è tipicamente suo, ha infatti detto a Bersani e Vendola: sposiamoci subito, proprio così ha detto, sposiamoci subito. Vendola, propenso, voleva accelerare addirittura la data delle nozze, ma Bersani era meditabondo. Ne riparliamo il 23 dicembre, ha detto. Ma Enrico Letta, piuttosto tradizionalista, ha sentenziato: non c'è nessun matrimonio in vista perché non c'è stato nessun fidanzamento. Beh, effettivamente, se si vogliono rispettare un po' tutti i passaggi, i riti tradizionali, avrebbe anche aggiunto: il triangolo no, non l'avevo considerato. Ma poi Bersani e D'Alema lanciano uno sguardo al terzo polo ed è attrazione quasi fatale. Per Natale, per chi non sapesse fino all'ultimo cosa regalare a quelli del Partito Democratico, sappia che un regalo di sicuro successo per il PD è senz'altro una bussola da giovani marmotti, anche solo quelle semplici, per orientarsi giusto tra destra e sinistra. Fin intanto, dopo la batosta per il voto di fiducia a Berlusconi, viene meno al fioretto fatto e, da classico fumatore, dopo essersi astenuto per un anno dalle bionde, per lo stress la prima cosa che fa è accendersi una sigaretta, e pare sia stata proprio intercettata l'accensione e la prima boccata. Sentite un po'. Bondi, sempre in clima natalizio, scrive invece una letterina, ma non a Babbo Natale, bensì a quelli del PD, chiedendo loro di essere più buoni, che cavolo, almeno Natale, e chiamandoli cari compagni in nome della sua vecchia militanza nel PC. Non sfiduciatemi, dai, dice, è un atto spropositato che rappresenterebbe un'onta non per me che lo subisco, ma per voi che lo promuovete. Ma quelli niente, gli rispondono picche, cattivi anche a Natale. E in tutti questi momenti così, e questi movimenti pluridirezionali, in questo sciamare da un orientamento all'altro, da un partito all'altro, bisogna dire, fa ancora più effetto sentire la storia del cane Athos, cioè la mascotte della nave mercantile italiana affondata in questi giorni nel mare d'Egitto. Ebbene, qualcuno stava portando in salvo il povero Athos, ma il cane, con la classica indomita fedeltà canina, si è buttato giù da rimorchiatore e a nuoto ha cercato di tornare verso la sua nave, ma le onde se lo sono portato via. Escluso il cane, tutti gli altri sono cattivi. E ritorniamo con i piedi per terra e ritorniamo anche alle vostre telefonate al numero verde 800 24 00 24, per commentare insieme i tantissimi fatti della settimana. Tra i molti c'è Gianluca da Roma. Gianluca. Buongiorno a tutti. Buongiorno Gianluca. Allora, io ho vissuto la manifestazione in maniera particolare, perché l'ho vissuta a metà dalla parte dei poliziotti e a metà dalla parte dei manifestanti. In che senso? Saltami un po' di qua, un po' di là. No, praticamente arrivo perché sapevo sarebbe successo qualcosa, quindi sono arrivato presto su Via del Corso. La prima cosa di cui mi sono reso conto è che l'organizzazione era assolutamente sbagliata, perché si sapeva che la manifestazione sarebbe arrivata a Piazza del Popolo. Che cosa è successo? Che Via del Corso non è stata chiusa, ma è stata chiusa soltanto a Largo Goldoni, poco prima del Parlamento, quindi i manifestanti hanno avuto libero accesso in Via del Corso. Ecco, metti in canalare centinaia di persone, migliaia di persone in Via del Corso, è sicuramente la scelta più sbagliata, perché è stretta, perché diventa claustrofobica e perché non ha via di uscita. Quindi questo, a mio avviso, è uno sbaglio. Dopodiché vado dalla parte dei manifestanti durante le cariche e devo dire che, a differenza di quello che si dice, non erano pochi i violenti, ma erano qualche centinaia. E si dice chi li ha mandati, chi c'era in mezzo. Beh, io in prima fila con i Facino Rosi ho visto Caruso e Turigliatto, se vi ricordate, no? Senatore Turigliatto e Caruso. Quindi la polizia ha avuto, diciamo, un atteggiamento di... Cos'erano? Rifondazione, mi pare? Partito di Rifondazione, movimenti, centri sociali e Partito Comunista dei Lavoratori. Prima linea. Tu li hai visti in faccia? Erano sicuramente loro? No, erano loro, cioè erano loro, riconoscibilissimi, quindi stavano lì. Ma facevano qualcosa di male o semplicemente manifestavano? Ma allora, la piazza era divisa così, la prima linea era fatta da queste persone incappucciate, in mezzo a queste qui c'erano Caruso e Turigliatto poco dietro, 30 metri più dietro c'erano gli studenti. Avviso scoperto comunque. Avviso scoperto, Turigliatto e Caruso, ovvio. Se no non li potevi riconoscere, giustamente. Vabbè, certo. Ecco. A 20 metri più indietro c'erano questi studenti pacifici che si erano stretti in un cordone. Io partecipo alle manifestazioni da sempre, ho 28 anni, ne ho 14. Per la prima volta ho avuto paura, perché ho visto spaccare i sanpietrini per terra, lanciarli, tirare bottiglie di birra vuote addosso alla polizia. Ma che, scusami Gianluca, tu eri lì per solidarietà, perché anche tu volevi manifestare, protestare, oppure per come osservatore? Non ho capito. Guarda, io all'inizio sono andato come osservatore, dopodiché mi sono ritrovato a manifestare. Perché? Perché mi sono interrogato non trovando risposte, e l'unica risposta che ho visto e che ho trovato è un disagio della mia generazione e di quella dei più giovani atroce. Tu lavori? Hai un lavoro? Sì, io lavoro, lavoro, sono precario, lavoro, non lavoro, rilavoro, insomma è una situazione che i giovani, il problema, si stanno dicendo tutti quanti: perché gli scontri, condanniamo gli scontri, ma ci interroghiamo su perché c'è questo disagio. Oggi un giovane ha una prospettiva di vita, di sguardo al futuro, a 6 mesi. Questo significa che non puoi fare un mutuo, che non puoi nemmeno comprare una macchina, che non ti puoi comprare un motorino, insomma, rendiamoci conto, cioè si vive sotto l'ombrello sociale delle famiglie, che più si va avanti più questo ombrello si restringe. C'è un disagio fortissimo. Secondo me bisogna, cioè, se questi ragazzi che hanno manifestato durante tutto l'anno in maniera pacifica, perché poi è facile che si possa degenerare, si ricorre ora a una forma di protesta più dura, ma bisogna chiedersi perché e se sono stati ascoltati, perché non penso sia la riforma dell'università. La riforma dell'università è la goccia che fa traboccare il vaso. Quindi c'è un disagio più generale, Gianluca. Questo dalla parte dei manifestanti. Hai detto anche che eri dall'altra parte dei poliziotti. Che cosa hai visto? Dalla parte dei poliziotti c'era una tensione enorme fin dalla mattina. Quindi si sapeva che sarebbe successo. Io intorno alle 11 ero davanti Montecitorio e poi mi sono fatto tutti i posti di blocco. Quello che mi sono reso conto è che c'era molto molto nervosismo. Devo dire la verità, io ho visto molti studenti che sono stati, diciamo, di quelli che sono stati poi presi in consegna alle forze dell'ordine. Non ho visto atteggiamenti violenti una volta presi gli studenti. Quello che ho visto però, e sono state delle cariche ben decise, è una cattiva organizzazione, ripeto, perché quando si lasciano le due vie, per chi ha presente Via del Corso, la Via del Corso e la Via Laterale libera, e si permette a loro di entrare liberamente lì dentro, gli scontri sono garantiti. Ho visto lacrimogeni al peperoncino lanciati, io sono stato vittima, con bruciore agli occhi e quant'altro, quindi è stata dura pure la reazione delle forze d'ordine. Gianluca, io ti ringrazio per questa tua testimonianza personale, e allora giro a Michele Ainis. Parte appunto la questione degli scontri, che già un pochino abbiamo affrontato, responsabilità o meno, sono loro i violenti quelli presi oppure no, però questa cosa del disagio giovanile, no? Leggevo qualche analista in questi giorni, ha parlato di un possibile come si può dire, innesto tra il disagio giovanile, in parte l'antagonismo di alcuni centri sociali e anche degli ultras del mondo del calcio, oppure è proprio disagio puro quello di cui parlava Gianluca? Noi dobbiamo dobbiamo interrogarci sul perché migliaia di ragazzi sfilano per le strade. Anch'io credo che la riforma Gelmini, che peraltro per quello che può valere la mia opinione, secondo me non peggiora la situazione dell'università. Non la peggiora? No, si potrebbe forse fare meglio, ma se devo misurarla, devo misurarla rispetto all'esistente. La riforma Gelmini alcuni nodi li scioglie, ma insomma non è di questo che stiamo parlando. Allora, c'è da un lato un rischio. È un rischio che la generazione di chi aveva 20 anni negli anni 70 ha attraversato e ne è rimasta vittima, quando cioè un intero movimento è stato sequestrato da frange violente, autonomia e poi le Brigate Rosse, ed è finito tutto a carte 48. C'era una, come dire, istanza di libertà e di liberazione che aveva attraversato il 68, anche lì con tanti errori, insomma avremmo bisogno di probabilmente 5 trasmissioni per parlarne. Ci penso. Però quello che poi è accaduto è che una minoranza, che era quella di autonomia operaia e che poi ha affiliato i gruppi terroristici, ha sequestrato un intero movimento. Questo è un pericolo, diciamo, che può ripetersi. Questo movimento oggi esprime certamente un disagio. A me ha molto colpito il fatto che questi ragazzi dicono di non sentirsi rappresentati, cioè di non trovare nella cittadella delle istituzioni chi sappia rappresentarli, e quindi questo vale per la destra e vale per la sinistra, che sono forse delle categorie che a noi coetanei di Giuseppe Garibaldi dicono ancora qualcosa. Ma tu sei coetaneo Giuseppe Garibaldi, Michele? No, ti facevo sono più vecchio, un po' più giovane. No, però voglio dire, poco fa abbiamo iniziato la trasmissione parlando del merito, no? Sì. Cioè della possibilità finalmente che i capaci e quelli che poi hanno voglia di sudare 7 camicie per raggiungere le cose, che abbiano anche un grammo di talento nel lavoro in cui si impegnano, ne abbiano poi un riconoscimento. Ora, questa cosa qui è di destra o di sinistra? Ma non lo so e non mi interessa. La legalità è di destra o di sinistra? Quando da Saviano sono andati Bersani e Fini a dire più o meno le stesse cose, perché i valori erano, in fondo riflettevano anche questo passaggio da categorie novecentesche alla difficoltà della politica poi di declinarle rispetto ai tempi che stiamo attraversando. E credo che ci sia, e poi diventa una miccia, insomma, per la protesta, che però deve essere, proprio per essere efficace, deve essere anche pacifica. E la miccia è questa, che tu avverti un sentimento di ingiustizia, e l'ingiustizia non deriva dal fatto che non siamo tutti vestiti con la stessa divisa come era ai tempi del presidente Mao in Cina, ma che chi ha più gambe, più voglia di camminare non riesce a farlo. E questo peraltro sta portando una serie di danni poi al paese nel suo insieme. Sempre Michele Ainis, costituzionalista e docente di istituzioni di diritto pubblico all'Università di Roma 3. Abbiamo trattato diversi argomenti, finora vorrei sentire quello di Giuseppina da Roma. Giuseppina. Buongiorno Giuseppina, devi farmi un favore però, devi proprio spegnere la radio perché si sente subito, proprio l'ampiezza sì, di casa tua. Sì. Ecco, spenta la radio. Benissimo. Buongiorno, senta, io mi volevo riferire ai disordini che ci sono stati a Roma. Sì. E a quello che ha detto la prima signora che ha parlato. Laura, sì. Sì. Volevo dire che intanto la signora deve, le leggi le fanno i parlamentari, per cui anche il ministro Maroni, che poi grida al lupo, e i magistrati le applicano e basta. Indubbiamente, se loro fanno le leggi pensando ad amici e a parenti, per cui lasciano delle maglie troppo larghe, e anche la malizia dopo di poter accusare i magistrati, che non è che sono tutte brave persone, per carità, però indubbiamente loro fanno le leggi, per cui di questi disordini, secondo me, dovrebbero pagarli i nostri parlamentari. Poi, a parte questo, c'è un fatto da dire: o che ci governa la destra o la sinistra, alla fine fanno tutti lo stesso gioco, cioè pensando soltanto alle loro questioni personali. Prendiamo ad esempio le immondizie di Napoli. Sì. Questo governo ci ha fatto una campagna elettorale, ci ha vinto le elezioni e tutto, per trovare Napoli che non è cambiato niente dopo 2 anni. Tu intanto, è vero che l'hai ereditato dalla sinistra alla sinistra, da quello di prima, ma io ti chiedo, cosa hai fatto in 2 anni? Mi sembra che il nostro Presidente del Consiglio si è specializzato a fare il mago Merlino, che lui dice le cose, però c'è una bacchetta che non gli funziona. Infatti in 15 giorni l'immondizia a Napoli non è sparita. Poi, bisogna fare un tagliando alla bacchetta. Dimmi una cosa, Giuseppina. Dica. Se in questo momento, diciamo, il PD è un po' disorientato, no? Si è liquefatto. Si è liquefatto. Quello si è autodisciolto. Poi? Mi hai ammutolito. Grazie così, Giuseppina, grazie, è stata molto... Posso dire un'altra cosa? Prego. Grazie. Poi volevo dire che in questo modo, sia dalla legge elettorale, sia che alla discarica di Napoli mandano direttamente i militari, questo automaticamente noi ci dovremmo chiamare non sudditi cittadini come adesso, ma solo sudditi, togliere il cittadino. E quando ci sono queste manifestazioni, non hanno diritto i parlamentari, se siamo in uno stato di eguaglianza, ad essere protetti, perché loro sono i primi delinquenti, in quanto a noi le case non ce le paga nessuno, non ci succedono altre cose. Bossi, che sta al governo e se l'è scordato, però Bossi, che dice che la nostra sanità funziona tanto bene, si è andato a curare in Svizzera. Come mai? Come mai Bossi, se mai ci ascoltasse? Sì. E poi al signore, che è un giurista, che sta parlando, Michele Ainis, sì, che è una persona squisita, però dovrebbe parlare a spot pubblicitari e spiegare che la nostra Costituzione, se tutti la leggessimo, è ancora valida e non ha bisogno di tanti ritocchi per fare i loro giochetti, ma andrebbe applicato in nome di tutti. Le leggi avrebbero bisogno di 2 righe e non di 4.000 pagine per farci entrare tutti gli amici e i parenti, e forse tutto funzionerebbe meglio. Io abito a Roma, provo a chiamare un vigile, provo a chiamare la polizia, non si sa, sono tutti disciolti come il PD. Mamma mia, che una dell'acido deve essere caduto. Giuseppina, dimmi solo in chiusura della nostra chiacchiera, di cosa ti occupi nella vita? L'ostetrica. Hai fatto l'ostetrica? Sì, e anche gli ospedali funzionano tutti per raccomandazioni. Senti, sai che Scilipoti invece è ginecologo agopuntore, però non ha molto... Mi farebbe tanto piacere conoscerlo, perché io sono d'accordo che la nostra medicina è solo per la farmaceutica. Abbiamo dimenticato che abbiamo un corpo che comunica tutto, invece adesso ognuno ti vede un pezzo e poi ti dice l'assemblaggio, vedi se te lo puoi fare da solo. Un po' di colla, grazie Giuseppina, grazie molto del tuo intervento. E a questo proposito, Michele Ainis, allora, ho tentato di fare questa domanda a Giuseppina, ma ha risposto in modo veramente laconico, drastico, e questa giustamente è la sua posizione sul PD, no? Che da una parte Di Pietro dice sposiamoci subito, ha detto proprio così, con Vendola e Bersani. Bersani ci vuole pensare un po', però leggo che D'Alema, adesso è pagina di Repubblica di mercoledì, di questo mercoledì, che dice da cretini fare dietro front rispetto al dialogo con UDC e FLI, quindi la vede più verso quella direzione, e poi dice bel partito del cavolo ha fatto Di Pietro, loro la vera opposizione, figuriamoci, qualcuno gli dà pure corda. Dove vanno? Che fanno? Vanno in... se sono in 2 a guidare in 3 direzioni diverse, e quindi vanno fuori strada. Oggi questo è il rischio, Massimo Gramellini sulla prima pagina della È bellissimo, ho visto il suo buongiorno, è andato a vedere sul sito del PD e una serie di elettori, si dicono ex elettori, ne dicono un po' di tutti i colori, diciamo. Se fosse voi posso leggere anche un pezzettino? Vediamo dove l'ho messo, proprio brevemente, così non ti levo spazio. Però ecco, l'amato leader, scrive Massimo Gramellini, che è anche un amico, e dice che è andato a vedere appunto sul sito del PD per dire quanto è amato l'amato leader Bersani. Sono un ex iscritto, questi sono gli elettori, e tra poco sarò un ex elettore, Francesco. Poi un altro, ma Fini è di destra, com'è possibile anche solo pensare a un'alleanza con lui, Michele? Poi, stasera restituisco la tessera, questa è Francesca, e ancora Chiara scrive, così non andiamo da nessuna parte, anzi sì, al suicidio. Poi un altro scrive, mi domando cosa avete nel cervello, ma davvero le partorite voi queste cavolate? E poi conclude Gramellini con una elettrice Monica che dice: segretario, rivolta a Bersani, tu ci ringrazi a proposito dei nostri interventi sul sito, ma i commenti li leggi o guardi solo le figure? No, Michele? Ma sì, ma poi c'era un altro, mi pare di ricordare, che diceva: ma insomma, fatemi capire, la volta prossima dobbiamo scegliere tra Fini e Bravo. Berlusconi. Sì, dice proprio così, le prossime elezioni tra Fini e Berlusconi, Alessandra, questa è... Ecco. Quindi, insomma, diciamo che sono un po' disorientati anche questi elettori. C'è disorientamento, c'è una politica delle alleanze che sta premendo sulla crisi. Politica, boh, dei valori, e c'è, io devo un po' ripetermi però, perché la credibilità delle parole d'ordine sulle quali si intesse una battaglia politica, questa o quella, passa anche attraverso le facce che rappresentano queste parole d'ordine. A mio giudizio, sommessissimo, però la tragedia del Partito Democratico è che l'attuale segretario Bersani deve fare i conti un giorno sì e l'altro pure con l'ex segretario D'Alema, con l'ex segretario Veltroni, con l'ex segretario Franceschini, con l'ex segretario Fassino. Insomma, sembra un fidanzato che ne ha avute, cioè, non riesce a staccare dal... Non si riesce a ottenere un ricambio di classe dirigente, ma non solo nel Partito Democratico, perché voglio dire... abbastanza sotto gli occhi di tutti. Il Consiglio continua a presentarsi come homo novus, ma insomma non lo è affatto, no? Sta da 20 anni in politica. Se alza un ditino il sindaco Renzi, che è un ragazzo, potrà avere dei toni sgradevoli, ma secondo me ha ragione quando chiede la rottamazione, un ricambio di classi. Rottamazione è una brutta parola perché si usa per le macchine. Su Libero lo vogliono rottamare, dicono che a causa del maltempo, del caos che c'è stato a Firenze, forse bisogna rottamare Renzi. Comunque, Roberta Giordano, sempre con voi, sempre mio opinionista estemporaneo di oggi, è il costituzionalista Michele Ainis. Vedo che l'ascoltatrice Roberta è caduta, come si dice, mi dispiace, vediamo se riusciamo a recuperarla. Velocemente Antonio della provincia di Roma. Perdonami Antonio, cominciamo la corsa maratona. Antonio? Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno Antonio. No, volevo sapere solamente, io non ho sentito una sola dirietà nei confronti dei commercianti che hanno subito danni, né dai signori universitari e non da altre persone che non hanno avuto proprio questo sentore. Questi sono lavoratori che stanno sulla piazza, che hanno avuto tanto coraggio per poter proseguire il loro commercio lasciato dai genitori. Sei un commerciante tu, Antonio? Sì, signora, sì, sì. E infatti io mi unisco alla solidarietà di questi miei colleghi che non conosco. Ma giustamente, hai ragione, cosa c'entrano i negozi commercianti? Ma d'altra parte, per dimostrare le proprie richieste, giustificatissime per carità, lo studio è anzitutto è la prima regola per poter andare avanti in un qualsiasi azienda e qualsiasi Stato. Però non è detto che devi devastare le proprietà degli altri. Siamo d'accordo, Antonio, mi devi perdonare, ma devo correre con accelerare i tempi, perché abbiamo il nostro Stefano Andreoli, questo è il galoppo che mi fa capire che i tempi si accelerano. Stefano Andreoli, il creatore di Spinoza.it, non è proprio come Assange, ma insomma siamo lì, Stefano, faccio una fotografia. Buongiorno. Neve ovunque. Sì, neve. Ti sei accorto oggi che si parla tu... di tempo. Qui a Cesena è nevicato moltissimo, io sono qui alla finestra che mi godo lo spettacolo dei bambini che escono da scuola in corrispondenza di una curva molto secca. È come un po' guardare una partita di bowling, è molto divertente. Ma ti prego. Queste giovani creature falciate. Ma parliamo di cose. Parliamo di cose serie. La fiducia. È una cosa Berlusconi seria, incassa la fiducia e dice durerò fino al 2013. Allora è meglio metterlo al fresco, così si conserverà meglio. Questo è a un parte po' che una... eterno, qualcuno ha detto. Esatto, è un po' una banalità. Come sappiamo, il voto deciso anche da 3 deputate in stato interessante, che sono Polidoro, presentate a votare, ma delusione di queste parlamentari in stato interessante. Berlusconi ha detto che non intende reincarnarsi per ora, quindi intende rigenerarsi dalle loro delusioni. Berlusconi poi ha dichiarato che vuole ridurre il numero dei parlamentari, giustamente anche lui in tempi di crisi mira a risparmiare. Veniamo a sviluppi politici, si costituisce un nuovo gruppo di 20 deputati partendo dai vecchi repubblicani, il PRI. Questo gruppo di 20 deputati non hanno mai votato per Berlusconi, ma si dichiarano disposti ad appoggiare il proseguimento di questo governo. Non hanno mai votato Berlusconi e pensano che farlo una volta non crei dipendenza, quindi però bisogna stare molto attenti. Ma parliamo un po' un'altra cosa divertente sempre su Berlusconi, poi al centro dell'attenzione durante, nel Consiglio d'Europa, insulti via Twitter a Berlusconi. Non so se hai letto la notizia, Roberta. Su Twitter venivano pubblicati diciamo questi status di Twitter, questo social network. Sì, sì, che molto veloce. E sono arrivati degli insulti a Berlusconi. L'autore si nascondeva sotto il nickname Jumfrey52, ma non si sa chi possa essere, quindi questi insulti veramente vigliacchi. Cambiamo argomento, arriva Face Padania. Il Facebook della Lega Nord. Sì, hai sentito. Io sono ancora su Facebook, quello tradizionale, se volete trovare un circolo. Poi vediamo, chiaramente. Ci sono, per esempio, spostare, il Facebook normale ha il mi piace, il Facebook Padania ha il dito medio, cioè ci sono un po'. Ognuno c'è il suo, suo icone. Comunque, esatto, è l'unico modo che i leghisti hanno per modificare il proprio stato, cioè questo Face Padania, per cui concediamogli anche questo piccolo svago e... chiuderei con una notiziola divertente. Il Papa ringrazia il governo italiano per aver difeso il crocifisso nei luoghi pubblici, per aver difeso la presenza del crocifisso. In effetti funziona, è già da un po' di tempo che non si vede nessun vampiro, quindi direi che il Papa... Bene, possiamo censurare il nostro Stefano Andreoli. Sempre troppo tardi, ovviamente, per censurarlo. Grazie Stefano Andreoli. E mentre ci avviciniamo al prossimo appuntamento con Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma, alla quale chiederò come sempre uno sforzo di sintesi straordinario, intanto lascio lì pensare Michele Ainis, se vuole poi intervenire su Bondi, che appunto ha scritto questa letterina al PD, cari compagni, in nome della nostra vecchia militanza in comune. Ecco, non so se mi fa più tenerezza, se è più una debolezza, se è mancanza di dignità, direi tu, oppure... se Fini, come ha detto Berlusconi, Delfino è diventato vice di Casini, insomma, mi dirai su cosa preferisci intervenire. A te, Valeria Della Valle, invece sottopongo la parola Vaiassa, che la Carfagna ha usato con la Mussolini qualche giorno fa, due settimane fa, e adesso è approdata anche a Strasburgo tra due deputate europee, l'Alfano d'Italia dei Valori e la Ronzulli del PDL. Questa Vaiassa, perché torna questa, Vaiassa, questa fortuna che conosce in questo... Sì. Quindi una parola che fino a che non è successo quello che è successo tra le deputate che hai nominato, è una parola napoletana sconosciuta alla maggioranza degli italiani, tranne appunto ai napoletani. Velocemente, questa parola napoletana in origine significava serva e poi è stata usata come sinonimo di donna volgare, di bassa condizione, donna sguaiata, donna che grida. Nel gergo della malavita il significato era ancora peggiore, perché significava prostituta, sgualdrina. Parola molto antica, insomma abbastanza antica, la troviamo già nel 600 addirittura in un poema eroicomico intitolato Vaiasseide, e poi in autori dell'Ottocento e del Novecento. Beh, per concludere, le nostre deputate non avranno fatto questo sforzo, però Vaiassa è parola registrata nei migliori dizionari della lingua legittima, italiana, però ecco, dubito che le signore se ne siano accorte, che se ne siano informate, e loro che hanno così elegantemente ripristinato il termine che ora entrerà nella lingua nazionale. Vedi, a volte le alterne fortune, diciamo, dei termini, dell'espressione. Grazie Valeria Della Valle. E adesso, mentre restano questi 33 secondi per Michele Ainis, Michele, prima ti avevo sottoposto la letterina di Bondi, oppure Berlusconi che dice Fini mio Delfino è diventato vice di Casini, o c'è qualcos'altro in cui in questi 27 secondi vuoi fare la tua conclusione, Michele? Ma io credo che se il ministro Bondi vuole sottrarsi alla mozione di sfiducia con questa lettera, significa che non ha fiducia nella propria maggioranza, che dovrebbe ribadirgliela. Però su 10 secondi io vorrei chiudere in bellezza citando Carducci. Perché il trasformismo mi pare, diciamo, la parola che riassume il clima di quello che è successo in settimana. E Carducci nel 1883 diceva questo: trasformismo, brutta parola, cosa più brutta, trasformarsi da sinistri a destri senza però diventare destri, e non però rimanendo sinistri. Una specie di né carne né pesce, un'ambiguità eccezionale che è vecchia data. Grazie Michele Ainis, e da Roberta Giordano a Sereni Orizzonti. A tutti.